NCC. Attento, Gianni W. Runzi, sì, all'ascolto, cambio. Gianni W. Runzi. Attento, Gianni W. Runzi, sì, in ascolto, cambio. Gianni, ci sei? Attento, Gianni? C'è qualcuno qua? Hola, c'è qualcuno qua? Più serio di quello, no? e poi li posso attaccare questo che ho qui a casa. Non stare lì a preoccuparti più di tanto, per papà. Va bene così, cavolo, ci mancherebbe altro. Ma tu cosa vuoi mettere? Uno diverso da questo? Eia, anche se lo trovo uno diverso da questo, anche come questo, tipo come questo che ho a casa, però lo posso intappare montando e rismontando ogni volta, mi hai capito? E niente, anche se lo trovo che magari al posto di avere 4 watt ne ha 5, 6, è la stessa cosa. Una occasione se riesco a trovarlo, e questo qui è il 100, me lo tengo a casa, perché è un peccato quel baracchinetto, Pier Papa. Il problema è che si mangia tutto. Qualsiasi cosa che ti cade lì, passa e se lo raccoglie. Se tremura di buono. Non è tremura di buono. Quindi si aspira proprio, non c'è bisogno a casa tua. Mangia tutto, e chi sia? Non può vedere di su, dire. Ah, se gli ho dato un pupazzo già, di quelli... Non so se li hai presenti, quelli che davano prima col coccolino, la morbidente. Comunque così, piccoli. Cazzo, ne ha mangiato dolci, ne ha saltato un naso. Sì, già ho capito, sì. Quelli che davano, davano anche in peluche, quelli lì. Sì, pupazzo in peluche, quei giochi fatti in plastica, no? Cazzo, meglio venire affacciati. E davano in fondo. Cioè, non era proprio davanti, in fondo, però era venire affacciati come a tessi. Dannaggia. Quando vanno lì già si mangia tutto, bulloni, rondelle, di tutto mangia. Se ne sapeva che ci sono. Tutto scortex, buccia, di tutto mangia, tutto, tutto che sono di dai, te ne va in casa, a passare tutto, mangia tutto quel cazzo. Bisogna educarlo, quando magari vuoi di mangiare gli dai un colpo, dici non si mangia, col dito puntato così, mi vedrai che già impara. Qui, ti sto dicendo, allora, già, se il cane è tuo, capisco magari una persona che non la conosce, cazzo, cioè ha ragione di girarsi. Se io gli butto, per esempio, nella con la mollica al pane, gli faccio la pallina, gliela butto, e vado a riprendergliela, oh, non ti rialzi. Come si chiede, così? No, ringhia. Non bastardi per quelli, per quello, capito? Vabbè, comunque. Cosa metti di chia? Tu glielo dai, preparami, e dai già, si incazza. Poi tu vai, la prendi, non te ne dà. Proprio stringe la bocca, non te ne dà, sì. Proprio la prima bocca, ma non può stare il bagno dalla bocca. C'è l'altro giorno, sto guardando, adesso non mi ricordo. E ne conto, questo di pane grandetto, no? Mi ragazzato, non era un pezzo di pane, aspetta cosa era? La mela già, la mela sbucciata, cioè era quasi finita, là. Cazzo, mi è caduto il coso in terra, il tozzo della mela. Cazzo, guarda un lampo, me l'ha presa, sta porata sotto la letta, mi ha detto lascia stare, quella me l'ha lasciata la verità, l'ha mollata, devo essere sincero. Si può cuore. A mangiare che cosa gli dai, roba di casa? E allora, papà, con il riso, con la carne, comunque mi ha detto quella di via Pascoli di non darle molta carne perché gli esce la forfora, capito già. E mi ha detto di non dargliele carne, possibilmente magari non me lo carne, avanti coccone, di grigio ancora attuato. Sarei tu, hai capito che non te lo dice, ah, eh? Bene, entra più tempo a giocare a fammi l'antenna, vai Luca. E non è così inteso, sto ascoltando a sé. Cazzo, diavolo, io non ne gioco il tempo del capo. Ti vai a darmi in mania, messi Goku. Cazzo, sei già lotto. Sì, sì. Adesso vado, mi cucino qualcosa e... Poi ceniamo, ma non, tanto vanno a passare in piazza di macchine. Ma rimane a posto d'ora, non ti ha mani che gossi. Siamo alle caccorte, sembra voi l'unico col maglione che ha seguito. Io non ho mai detto questa mattina, vaffanculo. La notte e mezza già, non ho già mai detto corte. Posso mattinare in veli, vabbè, in moto, la mattina c'è freddo per scendere lì via Porto Torres. C'è un po' la divisa, la tuta sotto, la divisa sopra, un giubbottino leggero e un giubbottino senza maniche. Come sai, il movimento, ma c'è anche i ferri, senza i compagni. E allora, diciamo, come il tuo attrenante, adesso mi organizzo meglio. Poca roba è meglio. Questo mattina mi devo alzare presto, mi vestito tutto. Casino, pure se mi devo fare. Ma sì, sai stilare. Io ti ho messo i cazzi di braccia e i maglietti. Hai detto che non arrivo un camion, alzo l'articolato. No, saranno, questo sono qua, non mi ricordo 3, 4, non mi ricordo un disimpero. Io ho messo 3, 4, 5, 6 jeans. Sono abusato, adesso domani ci portiamo i jeans, le magliette, la felpa. No, non faccio una roba mia, poi una gara, e purtroppo volevo fare. E immagini se uno c'è bisogno di stirare, puoi anche mettere così. Forte io non riesco a metterli già. Più forte di me. No, riesco, non riesco. Non riesco, non riesco. Gappa gappa. Ieri è venuto con l'amico tuo che guida il cambio della Sisa a scaricare da lui. Metto sempre breccando stai. Io sì e tu, oh, hai aggiungato tutto. Cosa vuol dire? Era? No, con le quattro assi. No, è certo. Prendiamo questo. Sono tanti. Ti stavo bene? Lui è fisso, non lì. Ci ne ha 10 anni. Sì. Ci ha 10 anni, là. Si lavora, Eddie, perché si lavora un bel... Non è che non si lavora. Questo è il microfono di... di Palmo. Va bene. Va bene, c'è no. E a quello che ho avuto che l'ha arrivato a me, il microfono da Palmo, gli avevamo tolto la parte di davanti, gli avevamo messo la rettina nera, bellino, eh. Aspetta, così è senza processore. Ma se è processore, papà... Io col processore, mi piace di più. Attacchino, allora ti stai drummendo. Aspetta, non sei giallo. Ma voi sei sciatto, boh. Esatto, così il braccio è più chiara. Cappa. Bene, bene. Strappi così, non è che se strappi. Cappa. No, già... vabbè, 60-60, non da che fa. Ma l'MC60 c'hai? Aspetta, questo non è l'MC60. Però non è mio, l'hanno prestato. Ah? Non ho comprato, adesso vediamo. Ho pagato 175 euro. Chi tu? Nuovo di zecca. Comunicazione. Adesso sarà anche aumentato che sia quanto costa. L'ho dato a Luigi nuovo nuovo, era in scatola ancora. Scappa gatto. E non lo ricordo della via a Luigi 140. Ma lo ti sbatto, ma lascio che ti venga. E di ex, ma c'è non esterno. Come passo della battaglia sul baracchino? Quanto vuoi che mi sto a fare due chiacchiere con voi, ma... Non mi attiva più come prima, già al vero. Cazzo. Vabbè, che devi c'è il curraccio? Che parla? Vai, anche se ti offendi, cara grande. Allora, questi... Ti chiri. si parla sento, non è chiara, è un po' compressa. No, per forza, è compressa. Ma qual è l'altro, il typhoon quello? Sei al typhoon, il typhoon. Magari si trovano. Io infatti mi è venuto in mente subito quella montavano, adesso non mi ricordo se erano gli scani o che cosa, montavano un'antenna dalla casa che usciva bene. Ah, il DAF? È quella del DAF. No, negativo, quella lì me l'ho venduta insieme alla base calamità. Ho buscato di nuovo per fortuna era in superficie dove c'è la carta, se no le avrei detto non ce l'avrei messe. E ho buscato di nuovo quella borchietta, gli ho tolto fuori lo stilo che aveva messo Marco dentro, però mancano le vittine, sono di quelle grosse. Infatti lo stavo chiedendo a Massimiliano, c'era qualche antenna vecchia da toglierle. Poi il problema non c'è, perché tu svitti uno e metti l'altro, e rimangono, le stazioni rimangono sempre uguali. Mi do da fare per cercare con le vittine già. La tema è finita, ti spiego come devi fare quando la piazzi per evitare che ci siano stazionari, è tutto lì. Io l'ho piazzata così, a me non me ne dà, capito? L'hai preso? Riprendi Massimiliano. Già, non credo di venire, no. Non si innamora. No. Sempre che Natalina ha detto che stava coricando, ha detto che non aveva voglia di salire. Ma mi sa che non va andarissimo se sia. Non lo so, io per cose così no, non è sempre sicuro di fuga. No, io che te lo chiederò, per carità. Non a dire che faccio anche della tabellicchino. Che ci sono anche Torina e cosa? E Gavino. Cosa? Anche Torina e Gavino ci sono. No, non è attivo. Appaga. E vabbè, ma che cosa vuoi fare? L'altra volta non so se ero un po' di bugia, per Paolo te l'ho detto, vai tu al quadrato, poi aspettarmi lì che se mi libero. Non male se ne sono andati presto. Vado dove non più. Ma qua sono diverse le cose. Adesso non se ne vanno in più, anche se se ne andrebbero presto, non è che lasciano la Daniela da sola con la bambina qua per salire al quadrato. Vabbè. Cappa. È così. Dai a voi. Mia moglie con Marco che ha fatto casino. Tu che ti metto già, gli avvio sta specializzando a fare le relazioni di Marco. Oh. Al suo clicker se l'ha già fatto. Ma dal trimmer? No, col potenziale col pomello. E se la quanta arriva? Quello che non lì fa da 1 watt a 10. Ma lei dava già 10 di watt? Sì, ebbene, le watt della parete. Ho aperto tutto il trim, ho misurato con watt, metto quanto le dava, e da 10 watt. E allora lui per 10 watt ha preso il potenziometro giusto, e niente, però dopo lo doveva piazzare, il potenziometro non ci stava, non faceva eliminare niente, allora se l'ha messo dietro là. Su che baracchino l'ha fatto? Non lo so che baracchino è quello che si è preso, la verità, perché è tutto cancellato, capito, la scritta e cose. L'ha fatto su quello, no? Sull'altro che aveva su 550. No, su 550 sa già dove dire, non è altri, ma sono, deve dire, delle bombine. Niente, quello lì l'ha lasciato così, 12 watt, come e basta. Io come quello di Gabino l'avevo dato a Giancarlo, come si chiamava? Quello che serviva prima a Luigi, Gianfranco, Giancarlo, mi aveva messo la camera ecco, parla ascolta, eccetera eccetera, ma non mi è piaciuto come l'ha fatto, fischiava, un casino, fischiava il parla ascolta, un casino, guarda, l'ha abbassato, l'ha portato, l'ha abbassato e fischiava sempre. Alla fine ho preso, me lo sono detto un camionista che veniva da lui, l'ha visto, che bellino questo qui, toh, a lui, ti lo vendo. Pierpaolo, così lo vuoi, avanti Pierpa. Così ti vuoi Pierpaolo, io uscita da Sasha e ti allargherò, copia. Pierpaolo, me taglierò, passeggiando, a passeggiare. Positivo il Caparrocchio. Effettivamente, anche smesso di piovere. quello a fare, quella monopolina. Vabbè, cosa devo fare? Niente, va. Boh, se non te la lascia Pierpaolo, ci vediamo domani con Pierpaolo, boh. E vabbè, adesso vediamo. Tanto che c'è il portafoglio. Ok, là, vado a prepararmi, Pierpaolo. Io mi preparo e poi scendo, va. Mi faccio trovare giù. Se ce la faccio a fare prima. Oh, Dio, ma se vogliamo lo sai perché? No, negativo, già te lo spiega Gianni il motivo, là, che non te lo posso dire qua. Positiva K parrucchia. Apri. Apro. Apri, a dopo. Apri. Si dice apri, non fossi. Bello, dopo quando ci troviamo in verticale, invece te lo dico come devono, come dicono i corsicani. Che vado, la mattina. No, non dicono così, no, già. Brutta parola, cioè una brutta parola, insomma, mica tanto. No, invece significa così, andare. Cappa. Vabbè, là, sentiamo là. Positiva in Cappa Roger, Massimiliano. Attento Massimiliano Bulldozer, compie. Cappa Cappa. Cava, e ti ho toccato il lineare da un chilowatt. Lioni, 9.35, stavo dicendo bene poco fa. Ma c'è il tempo, il tempo. K di positivo, K di Roger, K di Rosbetro. Lugariello, riprendi, vada, vada. Cosa riprendi? Sono un po' che ne va andando. La mattina la so presto, ma ci sono cose da fare. E poi riposerò di nuovo. Manco a pesca si può più andare, mi Luca. Costa lo pileschi adesso che è il pesce. Eh sì, lo so, un po' così. Però comunque mi ho preso con un amico andare a pescare. Ogni tanto una scappatina me la facevo anch'io prima. Adesso ho messo tutto quanto a posto, sistemato tutto. Se ti fai un giro di conti tra benzina, esche e caldue, andiamo a caldo, è fresco fresco e te lo porti a casa. Beh, più fortunata ce l'ho presa. Fresca fresca, anche venduta. Io ne ho venduti due, belle, se vuoi dirmi la bocca aperta. Uno era 2 kg, 2, l'altro anche no, comunque quasi 4 kg di roba, circa 50 euro. Cappa, quelle sono belle botte, complimenti, sono veramente delle belle botte quelle. Ma non sono male, io male, non le dico, c'è ancora troppo ancora nel cellulare. Cappa, ci mancherebbe altro. C'è a Franco con me, perciò. Allora, io non c'era lì, senti, forse lo conosci, forse non lo conosci neanche, vabbè, lì lui di Santa Maria di Pisa, è rimasta a bocca aperta, poi l'ho preso io, con la canna a pesca di Franco, ci continuo, diciamo quelle cose qua, no? A Porto Torres, infatti quando lasciamo la lavorare a un amico, no? E io sono giù su, di quello altro di Buscaglio, no? Poi ce ne ha preso, anche due piccole, un po' di roba c'era. Ne ho abbonato 20 euro mi sembra, o 15 euro se non mi ricordo, poi le altre 2,50, ma se non mi rimane la bocca bella colorata, è bella, proprio un onore. Attenzione Brecco, avanti Brecco, cappa, buonasera a tutti, buonasera a lei, 9,40 pieno cappa. Compagnia dell'amico Luca Diello. Ciao Luca. Ciao Luca. No, Luca, avete voluto vedere il pesce? Sì, lo facciamo il cartuccio adesso. Mettiamo, lo fondiamo bene con quelle cucchie alluminio e poi una rullatina nel forno. Sì, proprio sì. Comunque, belle pescate, un giorno lo stesso Giuseppe, lì, il padre Semolino, cazzo, ci ha vista, mi ha detto guarda grande, perché io purtroppo non potevo guardarla, perché lì nella banchina mi scorgevo un calcio, allora io come indietro, lo stavo recuperando, un tipo, ci siamo raggiunti quasi 4 kg di roba. circa, forse anche 5 kg, perché c'era quel chilo separato. Si è occupato una testa, però si pigliava un lì, si va giù una metà cosa, Giuseppe. E invece purtroppo va fatta a perdere. Io invece una sera al Molo Cattaneo ho pescato un gozzo. Grande? Sì, capo, era grande, non so quanti cavalli aveva, diesel per giunta, e che non ci arrivava ad agguantarlo a lui, capo, se no guai. Tu dovevi vedere la canna da pesca su quel muretto, meno male che era alto, sarà stato alto 1,80, quelle, forse anche 2 metri quel muro, no? E io da lì che gli urlavo di allontanarsi a lui, cade, perché le cose, le canne si vedevano, niente da fare, lui è passato in direzione delle lenze, no? Cosa ha cominciato a sfrizionare questa canna che correva da una parte all'altra del muretto fin quando non si è fermato. Ci aveva 500 metri di 0,50 attaccata all'elica. È un casino, Giuseppe. Ho fatto una volta a Franco, ce l'ha agitato la mattina. Stava che più bello mi sembra. Cioè, ha lanciato, la canna a bagno, ma siccome che si è dimenticato la frizione a puerta, c'è anche il segnale, si è portato via la canna a pesca, la canna a pesca ragazzi costava un po' di soldi, e purtroppo si è preso via, e provata appunto la canna a pesca, perfetto, bella, una, aspetta che mancare, una, no, una di cazzo, vabbè, una cannola comunque, l'ho apparato non so quanto, nuova, e sarà portata via. Papà, io per fare surf casting dalla spiaggia ho una bella madera in fibra di carbonio, 5 metri e qualcosa, e un bel micel senza archetto, che stanno 600 metri di lenza. Bella, bella canna da pesca, bella, bella. C'è un ragazzo che sta guardando, una piccolina, ma bella, come si va, piccola, mi sa che sia da 1,70 m, se stava guardando. Qualcuna già ce l'ho anch'io di canna, Molinelli e compagnia bella, però questa madera in fibra di carbonio è uno spettacolo, con quella quando devi pestare, se devi uscire e pesti alla città, fare certe frustate dalla spiaggia, guarda che è una meraviglia. È positivo, posso, a me già piace pescare, se l'altro non prendi. Il movimento è il massimo. Vabbè. Però non sono più passare perché non ti fanno più entrare. A meno che conosci qualcuno, ma puoi passare guai lui, si trova, ho capito. Comunque io le più belle pescate che ho fatto sono state fatte giù a Fiume Santo, dove c'era la centrale elettrica. Lì sono state memorabili, belle pescate, bei ricordi. Sì, sì, sì. Ma anch'io non ho preso tante, però da poco che ho preso già sono stato contento, là, diciamo. Poi una sera l'ho preso, allora con Franco, lancio io, lancia lui, ne ho preso una bella, due belle ne aveva preso, una bella, sì, guarda la serata, guarda, me la bocca fresca, poi c'è la gente lì, ecco, la bocca bella, mi sembrava 4 kg di roba, forse anche di più, proprio l'orate doc, ho lanciato tipo, per una c'è più lontano di me, capito, ci sono passati 10, 20 anni, 10 minuti, vai, qualche segnale, che cosa andiamo, vai, ho saputo la bruciata, io a casa, bella, sono soddisfazioni comunque quando si prende qualcosa. Positivo, vabbè, comunque, già ti diverti, vai. Ok, Luca Re. Io adesso stacco, ti saluto. Con tutto, buona serata, buon 144, quando lo fai. Ci sentiamo le prossimine, Luca. Ciao Giuseppe, ciao, un po' di me, perché a te. Alla prossima domani, grazie, ciao, ciao, sono tutto adesso e metto un po' al PC. Ciao, ciao a tutti, ciao Antonio.